con noi Simone Totola di Officine Ubu per parlare dell'uscita in sala del film La Mélodie di Rachid Hami. Ciao, ciao. Allora, sì, La Mélodie uscirà, farà qualche anteprima tra oggi e domani, uscirà ufficialmente il 26 aprile. 26 aprile. Il 26 aprile, sì, sarà in tutta Italia, in circa 50 copie in tutta Italia, e a partire appunto da giovedì 26 aprile, sì. Lo raccontiamo brevemente? Sì, certo. La Mélodie racconta di Simone, che è un professore di violino, che viene incaricato dell'insegnamento dello strumento in una scuola di classi multietniche alle porte di Parigi per favorire l'aggregazione fra studenti. Tra gli allievi c'è Arnold, che è un giovane studente che rimane affascinato dal violino e che scopre di avere appunto una forte predisposizione per lo strumento. E grazie al talento del giovane Arnold e all'energia della sua classe, Simone riscopre a poco le gioie della musica e si prefigge come obiettivo quello di portare la classe ad esibirsi alla prestigiosa Filarmonica di Parigi. Ecco, quindi una storia di riscatto sociale dove la musica è la vera protagonista e viene valorizzata come uno strumento di elevazione e integrazione, appunto, riscatto sociale. Ecco. Anche perché la classe non era una classe facile. Esatto, no, è una classe multietnica, appunto alle porte di Parigi, quindi una scuola di periferia in un quartiere svantaggiato. E La Mélodie ispira al programma DEMO, che è un programma di insegnamento che esiste veramente in Francia, che viene appoggiato dalla Filarmonica di Parigi e che appunto ha come obiettivo quello di favorire l'integrazione sociale di ragazzi di etnie diverse in queste scuole di periferia, che spesso sono purtroppo teatro di discriminazioni o comunque di situazioni poco situazioni difficili che riguardano professori ed alunni. Quindi ad un progetto che è realmente esistente in Francia. Mm-hmm. Di Rachid Hami cosa sappiamo? Rachid Hami, in realtà questo è il suo film, il suo primo film d'esordio, insomma, perché è un regista giovanissimo, è un regista di algerino, che ha mosso i primi passi con Kechiche, il regista di La Vie d'Adèle, per il quale ha interpretato un piccolo ruolo in film La Schivata. Questo film si ispira alla vita stessa di Rachid Hami, perché lui stesso fuggì dalla guerra civile in Algeria e si trasferì in Francia con la madre e i fratelli. Fu la madre che, dopo aver ricevuto lei stessa un'educazione comunque elevata, scolastica e musicale, ha trasmesso questi valori ai suoi figli, quindi anche a Rachid Hami, che li ha espressi nel suo film d'esordio, che è appunto La Mélodie. Cosa ti è piaciuto di questo film? Ma questo film l'abbiamo visto per la prima volta alla Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione fuori concorso, nell'ultima edizione della Mostra del Cinema, ed è un film che è un film molto sincero, ci ha colpito senza dubbio la sincerità del racconto, la bravura degli interpreti, ed è una storia che basa sulla forza della rinascita attraverso le proprie passioni. E Hami è bravissimo a tradurre con delicatezza in immagini e parole delle situazioni difficili e realmente vissute da questi giovani allievi. È un film sull'amore per la vita e per l'arte, quindi pieno di speranza, pieno di sorrisi, ma anche di momenti un po' più difficili, dove i protagonisti affrontano queste disillusioni con appunto nuova speranza, cercando di ottenere questo riscatto. Quindi era un film che sicuramente commuoverà e appassionerà gli spettatori, almeno ce lo auguriamo. Aggiungo anche la spontaneità degli attori più giovani, che sembrano interpretare una situazione reale. Esatto, sono infatti stati selezionati attraverso dei casting da ragazzi che davvero vivono in queste banlieue parigine e che frequentano davvero queste scuole alle porte di Parigi. E l'altra cosa sorprendente è che tutti i ragazzi non avevano mai suonato il violino, quindi prima del film sono state impartite loro delle lezioni dello strumento e hanno imparato a suonare proprio grazie al ruolo che loro hanno avuto la possibilità di interpretare nel film. Simone, che uscita sarà? Sarà un'uscita sicuramente selezionata in appunto circa 50 sale in tutta Italia, sale d'Este, cercando ovviamente di arrivare nelle città più grandi fino a poi allargarci pian piano nelle città di provincia,

nostro cellulare 347-86-74095. Noi siamo in via Cheruse 12, dove c'è la sede legale della nostra associazione, e cominciamo da martedì. Io e Silvia Scola saremo ad Airola e speriamo anche il giudice Giacomo Ebner, che è il giudice minorile che si è occupato del progetto, con tutto il Ministero della Giustizia e il Dipartimento Minorile di Comunità, che noi anche vorremmo ringraziare, ma i magistrati hanno sempre molto da fare, quindi compatibilmente con i suoi impegni. Io e Silvia Scola sicuramente alle 3 del pomeriggio del 24 aprile porteremo Ricomincio da 3 a questo gruppo di ragazzi. Benissimo, allora ricordiamo l'appuntamento il 24 aprile con Fuori le ali nell'istituto penitenziario minorile di Airola, in provincia di Benevento. Un saluto e un ringraziamento a Marta Rizzo. Marta, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie a voi, in bocca al lupo a voi, crepi il lupo. Buona serata, grazie. Siamo con Patrizia Salvatori del Cineclub Alphaville di Roma per parlare della programmazione mensile, quella di maggio, anche se c'è l'ultimo scorcio di aprile. Patrizia, ben trovata. Ben trovato anche a te e un saluto a tutti, grazie Federico. Sì, sì, hai ragione, hai detto proprio bene, l'ultima settimana di aprile è stata inserita inopportunamente, probabilmente, ma non veniva diversamente per noi, a maggio. Però insomma è questa settimana che è una settimana che si chiude con stasera una bella riflessione sulla grande attrice Libby Ullmann, protagonista dell'ultimo film che abbiamo in programma, appunto Sara Band di Ingmar Bergman del 2003. Quindi questa sera, nonostante le partite, quelle che sappiamo della vita, insomma, quelle epocali, stasera noi comunque proponiamo appunto la Bergman con la sua grande attrice Liv Ullmann, l'attrice norvegese, insomma, che quest'anno compie un'età considerevole. E da domani invece c'è una rassegna che appunto inizia il mese di maggio, che è un mese molto particolare perché è dedicato alla storia del cinema, con icone, autori, attori e quant'altro, insomma veramente da perdere la testa, cinefil, come abbiamo scritto nel comunicato sul sito. Da domani appunto parte una rassegna che è dedicata a Federico Fellini, sono 25 anni dalla scomparsa e non ci sentivamo proprio di abbandonarlo. Proprio l'altro giorno abbiamo proiettato a Marcord, questa volta è Fellini per sempre ed è una manciata di film dell'origine della storia del cinema felliniano, quindi non quelli che siamo abituati ad immaginare, visionari, che probabilmente programmeremo a breve, ma quelli insomma che in qualche modo hanno fatto parte del post-neorealismo e di una stagione luminosissima della storia del cinema italiano. Quindi ci sarà Le Notti di Cabina, Il Bidone, I Tellori, Le Tentazioni del Dottor Antonio, Luci del Varietà, insomma c'è veramente da ricordare, da guardare, da apprezzare e da imparare sempre dal nostro grande Federico Fellini. Poi naturalmente faremo, nel giorno del 1° maggio inizierà una rassegna che in qualche modo ha a che fare anche con la festa dei lavoratori, perché è una rassegna dedicata al regista francese Robert Evidian, che si trova appunto fra poco a Cannes, giurato alla 71esima edizione del festival. La rassegna si chiama Marsiglia Pop Hop perché questo regista Robert Evidian parla di lavori, parla di operai, parla di forza, di difficoltà, di tenacia, ma anche del cielo di Marsiglia, del porto e appunto di questi grandi amori con due icone del suo cinema che sono Arianna Scaride e Jean-Pierre Darroussel. Noi abbiamo selezionato una serie di questi suoi film, tra l'altro era pure nelle sale con la Viglia, una serie di suoi film, una gran parte di quelli usciti nel nostro paese. Veramente è un regista da apprezzare molto, è una sorta di, tra virgolette, caurismachi del cinema francese, anche se un pochino più grande, quindi diciamo che è arrivato un po' prima lui. Ci sono storie davvero bellissime da non perdere. Poi naturalmente ci sarà un martedì 8 maggio dedicato alla presentazione del corso Leggere il Cinema, la simbologia del linguaggio, tenuta da me e Patrizia Salvatori, e ci sarà proprio per dimostrare quanto è importante comprendere il linguaggio cinematografico la proiezione di Ziga Vertov, l'uomo con la macchina da presa. Ma subito dopo inizierà una rassegna Chabrol versus Hitchcock, Chabrol scusate, chiama Hitchcock, che è una rassegna bella di gialli in cui la protagonista è la musa icona di Claude Chabrol, che purtroppo è scomparsa tempo fa, e purtroppo è scomparsa anche lei, si chiama Stefano Dran, e per ricordare appunto Stefano Dran ho realizzato una selezione di gialli in cui lei è protagonista, icona nella vita e nelle storie dei film di Claude Chabrol, protagonista di gialli molto hitchcockiani. Sappiamo che Chabrol appunto andò ad intervistare Hitchcock con Truffaut alle origini del Nouvelle Vague, e qua vengono riproposti come sempre nella storia del cinema di Claude Chabrol alcuni temi, soprattutto alcune dinamiche davvero molto vicine al cinema di Sir Alfred. Ci sarà poi una serata martedì 15 dedicata a Vittorio Taviani, che è scomparso qualche tempo fa. Noi salutiamo anche Giovanna ovviamente, e le siamo molto vicine dell'Alphaville, che abbiamo fatto con lei tante cose nel passato, e Vittorio Taviani lo ricorderemo con la visione di Padre Padrone. Infine ci saranno due rassegne molto molto significative, una dedicata a Kim Ki-duk, che adesso è stato nelle sale non so fino a quando con il suo nuovo film dedicato appunto alla Corea, paese di origine di Kim, e con una storia molto singolare, molto particolare. Noi facciamo vedere però non i film di Kim, quelli più violenti, quelli che ricordiamo insomma essere stati anche origine di riflessioni, di scontri tra critica e anche spettatori. Noi ricordiamo, noi vogliamo diciamo mostrare Kim Ki-duk in alcuni film che hanno a che fare di più con una sensibilità più leggera e con colori più rarefatti. Quindi ci saranno L'Arco, Ferro 3, Il Suscio, che è un film bellissimo, Primavera, Estate, Autunno, Inverno, e L'Ultimo Time. Non potevamo chiudere senza un tocco surreale: i 25 anni della scomparsa di Buñuel, quindi Buñuel e Fellini accomunati da questa scomparsa. Come fare a non far vedere qualcosa del classico di Buñuel? E quindi noi chiuderemo quasi la rassegna, ma di maggio, con appunto una breve selezione dei suoi più importanti, più noti film, questi dedicati soprattutto agli spettatori più giovani che sentono parlare di questo grandissimo regista spagnolo, ma probabilmente forse sul grande schermo, perché i film si vedono sul grande schermo, sono sparitati per questo, sul grande schermo non sono stati mai visti. E qualcun altro, qualche spettatore più grande, insomma, che ha voglia di rivedere queste meraviglie. Abbiamo L'Angelo Sterminatore, Il Fascino di Stupere, La Borghesia, Bella di Giorno, Lo Scuro del Desiderio e Il Fantasma della Libertà. Finiamo Dulcis in fondo con una bellezza tutta italica, che è stata anche protagonista del manifesto dell'anno scorso, mi pare, di Cannes, cioè Claudia Cardinale, anche lei è una magnifica ottantenne. E per ricordarla facciamo vedere un film di Mauro Bolognini, altro grande regista italiano che bisognerebbe comunque ricordare, La Viaccia. Tutto quello che sarà oltre sarà appunto parlare, stare insieme, condividere queste visioni prima, dopo, e scambiare quattro chiacchiere nella saletta, perché poi in attesa ovviamente della Alphaville d'estate che si terrà all'Arena all'aperto di via dei Battisti da giugno. Benissimo. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo, Patrizia. Diamo come riferimenti chiaramente la pagina Facebook e il sito internet di Alphaville Cine Club. E a risentirci presto. Caro Federico, ti aspetto immanentemente. Ciao, a presto. Buona giornata, un saluto a tutti. Questo è lo spazio cinema su Radio Onda Rossa, con interviste su film, festival e rassegne in forma registrata. Ogni giovedì dalle ore 14 l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.